Ed eccoci qui, vi salutiamo anche dalla regia di nuovo. In questo giovedì 11 dicembre 2025 iniziamo subito ad ascoltare un altro brano. E per oggi ci ascoltiamo The Old Triangle nella sua versione fatta dai The Pogues, un brano che ci riporta in una prigione di Dublino, la prigione di Monjoy, dove questo brano ci racconta la vita nelle celle di un condannato a morte. E questa prigione è famosa per ospitare tanti reclusi dell'IRA, dell'Irish Republican Army, che avevano fatto partire un grande sciopero della fame negli anni 20, che si estese ad oltre 500 persone in tutto il paese. Ci ricorda un po' le vicende di oggigiorno in quelle isole britanniche. E allora ci ascoltiamo subito di Old Triangle. A hungry Phelan came o'er me stealing, and the mice were squealing in my prison cell. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. All to start the morning, the water boiling, get up out of bed, you, out yourself. And that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, the screw was peeping, and that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. On a fine spring evening, and that old triangle went jingle jangle all along the banks of the Royal Canal. Oh, the wind was sighing, as the lake lay crying in his prison cell. And that old triangle went jingle bloody jangle all along the banks of the Royal Canal. There are 70 women, and I wish it was with them that I did dwell. abbiamo ascoltato di Old Triangle nella sua versione dei The Pogues, e andiamo subito ad ascoltare gli argomenti di questa serata. Sì, allora un saluto anche da parte mia, da quest'altra parte del vetro. Allora, il pezzo che abbiamo appena ascoltato è quanto mai opportuno per questa serata. Infatti parleremo appunto, abbiamo, per chi ha ricevuto la promo, parleremo anche di iniziative complici e solidali alle nostre latitudini, ma non solo alle nostre, anche a latitudini un po' più lontane dalle nostre, e tra queste ci sarà anche la presentazione di una proiezione che faremo domani a Udine proprio sui Prisoners for Palestine. Poi ne parliamo in maniera più dettagliata, e poi l'altro, diciamo, spunto che abbiamo pensato per questa sera è questa lettura, commento di un articolo tratto dal libro Ritorno a Gaza, scritti di donne italo-palestinesi sul genocidio, specificamente un articolo di Miriam Abu Samra, che è anche la curatrice del testo, un po' in continuità come riflessioni con quelle che abbiamo fatto lo scorso giovedì. Se vi ricordate, per chi ha ascoltato, c'era tutta questa riflessione di Laila Hassan, anche lei una giovane italo-palestinese della diaspora, insomma di seconda generazione, che dei giovani palestinesi, quindi, perché abita appunto in Italia, che aveva così approfondito il discorso dell'opacità, del diritto all'opacità come strumento contro lo sguardo orientalista dell'Occidente, insomma, sulle lotte appunto dei palestinesi. Magari mettiamo ancora un pezzo e dopo partiamo con il... Kings, no bosses, laws, or order, marching army. much do we bring to give them all a reason now to dance and to sing? Allora, si diceva non è iniziato tutto il 7 ottobre, e questo articolo di Miriam Abu Samra, due parole su di lei. È appunto una giovane nata e cresciuta in un paesino al confine tra Lazio e Campania, madre italiana, padre palestinese, originario di Beit Dajan, Jaffa, nella Palestina occupata nel 1948. Anche lei è una dottoranda di ricerca, quindi diciamo che come la compagna di cui abbiamo discusso i contributi, Laila Hassan, la scorsa settimana, anche lei appartiene, diciamo, all'ambiente dell'accademia. Però questo potrebbe essere lontano anche in un certo senso, magari dall'approccio che di solito abbiamo noi. Nel caso però di queste giovani palestinesi, italo-palestinesi di seconda generazione, l'appartenenza, cioè il discorso dello studio, diciamo, dell'approfondimento dello studio della storia e non solo, è molto importante, è centrale. Anche in questo articolo, infatti, Miriam Abu Samra, appunto, ci parla anche del ruolo, addirittura subito dopo la Nakba, dell'importanza delle azioni degli studenti per la resistenza palestinese. L'articolo, come un po' tutti quelli di che sono contenuti in questo libro, parte dalle vicende autobiografiche, quindi anche dal vissuto personale, insomma, di queste giovani donne. E essere una giovane donna araba in Italia, non sapere però non aver mai vissuto nel paese d'origine, diciamo, e esserci andata solamente per sporadicamente, e non sapere la lingua o saperla poco, però nello stesso tempo conservare memoria, radici, insomma, della Palestina, e anche questo desiderio del ritorno. E però questo aspetto più autobiografico personale io lo lascio da parte e mi concentro invece sulla sua trattazione storica della situazione, appunto, della lotta dei palestinesi contro l'occupazione e il colonialismo, e anche su quali possono essere le spinte che vengono da un movimento più internazionalista come è quello, appunto, dei giovani della diaspora. Lei inoltre dice che diaspora non è il termine più adeguato per riferirsi all'esilio palestinese. Cioè, lei dice, il termine arabo utilizzato per l'esilio palestinese è shattat, che viene tradotto come dispersione. E lei dice che non è che viene utilizzata diaspora perché, diciamo, è più diffuso narrativamente, più comprensibile, però in realtà il termine diaspora secondo Miriam Abu Samra non restituisce la natura violenta e di forzatura che è intrinseca nell'esilio palestinese. Allora, entriamo subito in merito alle questioni. Lei dice: nel 2006 il confronto con la storia palestinese diventa impellente e necessario e segna definitivamente l'articolazione identitaria e politica mia e della mia generazione. Si apre un nuovo scenario nella storia del movimento di liberazione che richiede anche a noi, soprattutto a noi giovani che si affacciano alla nuova fase politica, un impegno più deciso nell'analisi del passato e del presente. Allora, che cosa succede? Nel 2006 per la prima volta si assiste ad uno scontro interno drammatico tra movimenti palestinesi. Hamas vince le elezioni del Consiglio Legislativo palestinese, organo dell'autorità nazionale palestinese istituita dagli accordi di Oslo nel 1993 e presieduta fino a quel momento dal partito storico Fatah, che ha la leadership anche dell'OLP. Allora, nel 2006 la vittoria di Hamas viene giudicata legittima e democratica anche dalle numerose delegazioni di osservatori occidentali che supervisionavano il processo elettorale, appunto proprio per giudicare se le procedure di votazione eccetera rispondessero alle aspettative di democrazia tra virgolette di chi ne detiene la definizione, cioè l'Occidente. Però questa vittoria elettorale di Hamas non viene riconosciuta dagli Stati Uniti e da Israele, che impongono alla presidenza dell'autorità nazionale palestinese, che è dipendente economicamente e politicamente dal sostegno della stessa autorità coloniale che opprime i palestinesi e dai suoi alleati internazionali, di non ratificare il risultato elettorale. Quindi Stati Uniti e Israele ricattano l'autorità nazionale palestinese e l'autorità nazionale palestinese non ratifica il risultato. Ne nasce, ci dice Miriam, una guerra fratricida che porterà alla frattura fra i due movimenti. Il controllo, se così si può chiamare, vista la condizione di occupazione coloniale, della striscia di Gaza da parte di Hamas, e invece la Cisgiordania, e in realtà parte di essa, sotto il controllo politico e non solo, da parte dell'autorità nazionale palestinese. Allora, lei ci dice, secondo me è importante questo passaggio qua, cioè chiarito questo passaggio qua, questa crisi politica, la necessità di comprenderla, di contrastarla, ha di fatto accelerato il processo riorganizzativo delle seconde generazioni in diaspora. E ci dice: nel 2006 ha preso vita il progetto transnazionale che ha visto centinaia di giovani palestinesi da tutto il mondo ritrovarsi e confrontarsi, iniziare un percorso collettivo di studio della storia, una ridefinizione del concetto di identità palestinese che fosse in grado di incorporare le diversità di esperienze che l'esilio ha imposto, che ritrovasse nella frammentazione geografica che il colonialismo ha saputo imporre e implementare la spinta verso la riorganizzazione transnazionale e la convinzione di un progetto politico condiviso. E lei dice che proprio con questa presa di consapevolezza di questa crisi grave, di questa guerra fratricida, tanti giovani hanno riscoperto il ruolo centrale della diaspora palestinese nel costruire strategie di liberazione, nel denunciare le sempre più asfissianti pratiche di controllo coloniale, ora radicate anche nel dominio politico ed economico di un'elite palestinese divenuta strumento di oppressione in mano ai colonizzatori, utilizzato per dividere il movimento nel tentativo di indebolirlo ed eliminarlo. E tutto questo processo di consapevolezza porta nel 2011 alla formazione del Palestinian Youth Movement, e di cui appunto Miriam Abu Samra è anche una fondatrice. Ecco, e arriviamo poi all'ottobre 2023. Ci dice, quindi piccola parentesi autobiografica, da neanche due mesi sono negli Stati Uniti, inizio il progetto di post dottorato, una nuova fase di quello studio e di quella ricerca che avevo intrapreso nel 2006, mi trovo in California. Il PIM, appunto questo movimento dei giovani palestinesi, ha una solida base per studiare quali sono le prospettive per nuove strategie di liberazione anticoloniale e quale ruolo possono avere i giovani della diaspora nell'articolazione di questo progetto collettivo. So, come lo sanno tutti i palestinesi, che la questione palestinese non è chiusa. Dentro e fuori la Palestina continueranno a mobilitarsi voci e forze che si oppongono all'ingiustizia coloniale. Il 7 ottobre non rappresenta una rottura nella storia di liberazione palestinese, al contrario, ne sottolinea la continuità e l'ineluttabilità. Il 7 ottobre però rappresenta una rottura rispetto a come il mondo ha guardato alla Palestina negli ultimi 30 anni, a dir poco. Il 7 ottobre rappresenta anche il momento in cui la nuova generazione di palestinesi della diaspora occidentale ha dovuto rapportarsi in maniera brutale a forme sempre più articolate di disumanizzazione, annichilimento, stereotipizzazione, razzismo antipalestinese, anti-arabo ed islamofobo. Il 7 ottobre apre una fase di ingaggio più diretto, consapevole e organizzato delle nuove generazioni di palestinesi in diaspora, che rivendicano il loro ruolo centrale nel movimento palestinese, nel farsi voce orgogliosa della lotta di liberazione nelle sue diverse forme di resistenza all'oppressione a Gaza, nella Cisgiordania e in tutta la Palestina storica. E ci dice ancora: i giovani palestinesi nella diaspora portano la Palestina a casa e traducono la lotta anticoloniale in un linguaggio che parla alle società occidentali, individuando e denunciando le connessioni politiche, economiche, ma anche narrative ed epistemologiche tra la colonizzazione sionista in Palestina e forme di sfruttamento economico, oppressione sociale e repressione nelle società occidentali. E quindi, appunto, quello che dovremmo fare anche noi. I giovani palestinesi portano la Palestina a casa. Mettiamo un pezzo e poi continuiamo. E abbiamo ascoltato What Reason Have They to Dance della band The Orphans, della quale abbiamo ascoltato anche altri brani in sottofondo dall'album Raise the Youth. Allora adesso andiamo a proporvi una band nepalese, storica band di questo album del 2010. Ascoltiamo noi il secondo pezzo, che si chiama Samaijo Ko Kaidi, e che vuol dire Society's Girl, Society's Prisoner, dal loro album Nepalko Kata Haru, Raiko Ris, e andiamo. Thank you. Ecco, e siete sempre su Zarlins Magnetics, giovedì 11 dicembre 2025 in diretta. Allora, ritorniamo a Non è iniziato tutto il 7 ottobre, questa lettura e commento, insomma, di questo articolo, diciamo, storico di Miriam Abu Masra. Allora, eravamo arrivati al 2023 e quindi a questa spinta, diciamo, dei giovani palestinesi della diaspora in Occidente di portare la Palestina a casa, quindi di portare le istanze della decolonizzazione e della rivoluzione sociale anche collegata dalla Palestina ai luoghi appunto della diaspora. E arriviamo al maggio 2024. Allora, che cosa succede nel maggio 2024? Ci dice Miriam che ormai da 7 mesi è in giro per le università nordamericane, dove ci sono mobilitazioni, accampade, eccetera. E queste accampade, che poi non ci sono chiaramente solo negli Stati Uniti, ma nella maniera specifica negli Stati Uniti, vengono definite università popolari. E non sono solamente luoghi di protesta, ma diventano, cioè vogliono essere anche ambienti di pedagogia decoloniale. Quindi si cerca di, in maniera autogestita, di costruire il sapere al di fuori dei paradigmi imposti dalla istruzione neoliberale. In questo contesto qua, Miriam viene invitata da appunto il Movimento dei Giovani Palestinesi a una conferenza per parlare del GUPS, che sarebbe un acronimo che sta per General Union of Palestinian Students, Unione Generale degli Studenti Palestinesi, che è stata la prima organizzazione transnazionale palestinese creata dopo la Nakba nel 1959, una organizzazione sorta, che è stata creata al Cairo e che ha avuto sezioni in molti paesi, svolgendo un ruolo centrale nella internazionalizzazione della causa palestinese e addirittura prima dell'OLP, insomma, esisteva questa Unione Generale degli Studenti Palestinesi ed era presente anche in Italia a partire dal 1970. Allora, quindi c'è questo desiderio, diciamo, di ripercorrere un po' la genealogia anche delle lotte. Ci dice Miriam, questa conferenza è stata cioè leggendo da queste dichiarazioni di intenti, insomma, del Movimento dei Giovani Palestinesi negli Stati Uniti, questa conferenza è stata convocata nel corso di quello, cioè del momento storico, che per noi è insieme genocidio e rivoluzione. Perché è nostro dovere far crescere questo movimento come un braccio tra i tanti nella continua lotta di liberazione nazionale per la Palestina. E la Miriam Abu Masra dice, colpisce il fatto che questa dichiarazione, insomma, fa emergere il fatto che c'è una lettura non apologetica della resistenza anticoloniale palestinese. E praticamente il processo di liberazione è visto come un fatto dinamico, un fatto che coinvolge tutti i settori della società palestinese. Non si tratta di un concetto astratto, diciamo, ma di una ricerca di prassi che vanno costruite collettivamente. E nella dichiarazione finale di questa conferenza del maggio 2024, il movimento appunto dei giovani palestinesi ribadisce: la causa palestinese rimane la bussola del movimento internazionalista. La resistenza palestinese apre una nuova fase rivoluzionaria che mobilita tutti i settori sociali, non solo tra i palestinesi, ma tra tutti i popoli oppressi. Quindi vediamo ancora che cosa ci dice del movimento studentesco globale per la Palestina. Ci dice: l'emergere e lo svilupparsi di questo movimento riflettono un processo storico di resistenza e solidarietà transnazionale che attraversa decenni di lotte anticoloniali. Nella storia palestinese, il movimento studentesco transnazionale ha svolto un ruolo centrale, muovendosi già nell'immediato post-Nakba su due traiettorie: quella della riorganizzazione del movimento nazionale intorno a visioni politiche rivoluzionarie, di rottura rispetto alle impostazioni tradizionali dominanti nella regione, e quella della mobilitazione transnazionale e internazionale del settore studentesco. Furono gli studenti che agli inizi degli anni 50 nelle università del mondo arabo, quali Beirut, Cairo, ma anche Damasco e Baghdad, diedero vita clandestinamente a quelli che poi divennero i partiti protagonisti del movimento di resistenza palestinese, Fatah, il movimento nazionalista arabo, dal quale nacque anche il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Nello stesso tempo, già nel 1959, gli studenti palestinesi fondarono la prima organizzazione transnazionale per la Palestina, appunto l'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, che precedette la stessa creazione dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, cioè l'OLP. Questo percorso di elaborazione ideologica e di prassi organizzativa si fondava su una chiara visione anticoloniale della questione palestinese e su un'analisi capace di inserire il progetto coloniale sionista in Palestina nella lunga storia del colonialismo europeo e dell'imperialismo occidentale. Questa analisi collocò gli studenti palestinesi nel più vasto scenario dei movimenti del Terzo Mondo, cosiddetto, degli anni 50 e 60, e favorì l'emergere di strategie e visioni in chiave antiimperialista, anticapitalista e di lotta congiunta dei popoli e dei settori oppressi. Durante gli anni della decolonizzazione, i giovani palestinesi in diaspora denunciarono l'ipocrisia di un sistema internazionale che da un lato riconosceva l'indipendenza di alcuni popoli, mentre dall'altro legittimava il progetto coloniale sionista. Però vediamo che cosa succede negli anni 90 con il processo di Oslo. Allora, negli anni 90 tutto questo lavoro, insomma, questo costrutto, questo linguaggio di liberazione anticoloniale venne colpevolmente accantonato e abbandonato dalla leadership per favorire l'approccio pragmatico che i negoziati, appunto, di Oslo imponevano, per cui la lotta palestinese fu ridotta a una questione di state building, cioè una questione di costruzione di uno Stato all'interno di un quadro neoliberale. Questa trasformazione di prassi e discorsiva paralizzò la mobilitazione popolare. A partire dagli anni 90, il GUPS, appunto, l'organizzazione, insomma, degli studenti palestinesi, perse il suo ruolo di avanguardia e la capacità trainante a livello transnazionale. Al contrario, oggi stiamo assistendo al recupero di un quadro di riferimento anticoloniale che rifiuta le illusioni di pace imposte da un sistema internazionale che ha di fatto legittimato l'espansione delle mire coloniali israeliane. In questo ultimo anno, la retorica orientalista che Edward Said definiva strumento di egemonia discorsiva e di alterizzazione ha assunto nuove forme per legittimare il massacro, infiltrandosi nel discorso politico e mediatico occidentale, ben oltre i circoli sionisti. Questo processo ha rivelato ancora una volta le radici coloniali delle società occidentali, manifeste manifeste anche nell'approccio alla Palestina da parte del mondo progressista. Quindi qui Miriam Abu Samra porta una critica alla solidarietà liberale, la chiama così. È divenuta evidente la problematicità della cosiddetta solidarietà liberale, espressa da organizzazioni, associazioni e gruppi per i diritti umani, che sono incapaci di capire la possibilità di una trasformazione autenticamente decoloniale che questo momento storico rappresenta. Si è assistito invece alla riproposizione di narrative paternalistiche, di un approccio civilizzatore salvifico della solidarietà neoliberale. Una solidarietà che impone condizioni, si basa sui condanni, sui se e sui ma, su lezioni, sulle forme di resistenza anticoloniale. E avanti, insomma, quindi ribadisce come, insomma, fanno i giovani palestinesi d'Italia e non solo, questa critica radicale verso la solidarietà umanitaristica, ma anche in generale, diciamo, la solidarietà liberale, che appunto non mette in discussione in fondo la società occidentale capitalista e imperialista. E in questo contesto la voce delle seconde e terze generazioni di palestinesi della diaspora occidentale diventa fondamentale. Sono loro che, con la complessità identitaria di chi vive nel mezzo, di chi si confronta quotidianamente con la disumanizzazione delle proprie radici, con categorizzazioni superficiali e banalizzazioni stereotipate della propria ricca storia politica, culturale e umana, si fanno carico di un processo di riarticolazione epistemologica volto a ribaltare una narrativa che non li rappresenta e finisce per demistificare la lotta anticoloniale palestinese. Allora ci dice Miriam Abu Samra, i giovani palestinesi della seconda e terza generazione della diaspora fanno emergere questo: non è più solo una lotta nazionale quella della resistenza palestinese, ma è una denuncia di strutture globali fondate sul dominio, lo sfruttamento e la repressione. Quindi la storia, diciamo, che ci tramanda la resistenza palestinese non è solo quella palestinese, ma è parte del quotidiano di ogni società, di ogni individuo. L'analisi storica ci racconta che Israele non è un'eccezione, bensì l'espressione più coerente di un sistema di dominio che si sostiene attraverso l'imposizione universale dei propri valori e il controllo della relazione fra sapere e potere. E questo, insomma, è abbastanza evidente, lo viviamo un po' tutti i giorni. Basta pensare al moltiplicarsi in questi 2 anni e 2 mesi di dispositivi di controllo e di repressione anche qui dove viviamo noi, no? Basta pensare appunto all'accanimento sulle le forme di solidarietà attiva, ma anche sulle forme di solidarietà tra virgolette democratica verso la resistenza palestinese. E basta pensare anche a appunto tutti questi dispositivi di repressione che servono a il più possibile a terrorizzare e a bloccare, insomma, fermare i processi rivoltosi e auspicabilmente anche rivoluzionari, che attaccano lo stato di guerra, insomma, in cui ci troviamo. E sì, lo viviamo anche qua, insomma, un po' dappertutto, su tutti i territori, questo stillicidio di appunto procedimenti repressivi a nostro carico. E quindi, per concludere, non è iniziato tutto il 7 ottobre. Il 7 ottobre non è una rottura, ma è una, diceva lei prima, un proseguimento ineluttabile della lotta dalla Nakba in poi. E una questione invece significativa e esemplare, diciamo, è l'esperienza specifica anticoloniale palestinese, perché lei ci dice che l'eccezionalità di questa esperienza anticoloniale, beh, intanto sta nel fatto che non si è mai fermata, è sempre stata portata avanti in maniera magari carsica, ma neanche tanto, è sempre stata portata avanti. E poi lei ci dice è un'esperienza che è intergenerazionale, per cui i giovani si confrontano con una storia decennale di resistenza e quindi imparano, no? Apprendono anche dalle crisi, però anche i più anziani si misurano con un'analisi politica più giovane, che è in grado di denunciare le contraddizioni e anche i fallimenti del processo, del percorso politico del movimento. Poi è una lotta transnazionale, perché il popolo esiliato continua a essere parte integrante della mobilitazione nazionale. E poi è una rivoluzione sistemica, perché ridefinisce i concetti di giustizia e di liberazione da ogni forma di oppressione e di sfruttamento. Ecco, e poi mette a fuoco questa cosa, come si diceva prima, che il sistema capitalistico globale utilizza la violenza di Stato per mantenere i propri assetti di potere. E quindi, veramente concludendo questo articolo, non è iniziato tutto il 7 ottobre, non è iniziato neanche nel 2006 o nel 2001 o nel 1991 o nelle tantissime date ed eventi di oppressione, violenza e resistenza che hanno segnato la storia palestinese e araba. Non è iniziato neanche nel 48 con la Nakba e nemmeno con la dichiarazione Balfour del 1917 o il primo congresso sionista del 1896. La lotta di liberazione della Palestina inizia con le lotte di tutti i popoli indigeni che hanno combattuto il colonialismo europeo nel corso dei secoli, con tutti quei popoli che storicamente si sono opposti al dominio imperialista in tutte le sue forme, dalla colonizzazione diretta allo sfruttamento economico capitalista, al controllo delle narrative, dell'epistemologia, al neocolonialismo liberale, delle ONG contemporanee e così via. La Palestina oggi è l'affresco collettivo di tutte queste lotte contro ogni forma di oppressione e violenza coloniale. Allora, stiamo ancora ascoltando i Rai Koris dal loro album Nepal Ko Kataharu, Stories from Nepal, storie dal Nepal. Questo album registrato nel gennaio 2009 live, quindi in diretta nella loro cucina, come dicono dal disco, e ci ascoltiamo ancora un pezzo. Eccoci qua, una buonasera, un benvenuti in ascolto anche da parte mia per questa puntata di giovedì 11 dicembre. Zardins Magnetics, siamo alla voce iniziative complici e solidali alle nostre latitudini o giù di lì. A tal proposito io vado semplicemente a leggervi e a rilanciare questa importante iniziativa che si svolgerà sabato 13/12/1312 al Parco delle Energie, ore 19, via Prenestina, Roma. Si intitola Carcere e guerra. Ecco, ve la vado a rilanciare anche perché tra le realtà che sostengono questa iniziativa, che hanno promosso questa iniziativa e l'hanno messa in piedi, oltre a Giovani Palestinesi in Italia, UDAP, Rete Liberi e Libere di Lottare, Cage International, Proletari per il Soccorso Rosso Internazionale, c'è anche l'assemblea antimilitarista Sabotiamo la Guerra. Allora, l'iniziativa consiste in un incontro con Mansour Adaifi, detenuto per 14 anni a Guantanamo e autore del libro Don't Forget Us Here, attivista di Cage International. Mansour Adaifi è un ex prigioniero del campo di concentramento di Guantanamo, dove è stato detenuto per oltre 14 anni senza che fosse mai formulata nei suoi confronti nessuna accusa. Guantanamo è un carcere di guerra statunitense attivo dal 2002 per la lotta al cosiddetto terrorismo, dove vige un perenne stato di eccezione, si opera in condizioni di extraterritorialità e extralegalità e i detenuti subiscono torture, privazioni e una detenzione arbitraria. Nel 2016 Mansour Adaifi è stato consegnato alla Serbia e ha iniziato una lotta per costruirsi una nuova vita e per liberarsi dalla classificazione di sospetto terrorista. Oggi è uno scrittore, avvocato ed è autore del libro Don't Forget Us Here, Lost and Found at Guantanamo. A partire dalla sua esperienza di prigioniero a Guantanamo, ha pubblicato articoli, rilasciato interviste, partecipato a documentari, programmi radio e podcast. Mansour Adaifi è inoltre un attivista di Cage International, organizzazione che sta supportando Prisoners for Palestine. A dimostrazione della censura in vigore verso chi difende la causa palestinese, è stata bloccata la spedizione del suo libro in Italia e gli è stato concesso un visto di soli pochi giorni, motivo per il quale potrà tenere un numero limitato di iniziative. Con questo incontro vogliamo approfondire la conoscenza dei dispositivi controinsurrezionali usati dagli stati colonialisti per supportare le loro aggressioni. L'utilizzo di questi strumenti viene sempre giustificato tramite la narrazione della lotta al terrorismo. Vediamo ad esempio come, riguardo alla situazione in Palestina, i governi occidentali, mentre non compiono alcun atto concreto contro il genocidio attuato dai sionisti, sono sempre pronti a delegittimare la resistenza palestinese e a censurare, criminalizzare e reprimere ogni forma di solidarietà verso il popolo palestinese, che vada al di là dell'umanitarismo di facciata. L'accusa di terrorismo è quindi sempre pronta per essere utilizzata contro chi sostiene la Palestina. Noi invece vogliamo ribadire che la liberazione dal colonialismo passa attraverso l'autodeterminazione degli oppressi e quindi tramite la lotta che assume la forma della resistenza. Per noi solidarietà verso la Palestina significa quindi dare legittimità alla resistenza, contrastare ogni forma di collaborazionismo con Israele e smascherare tutta la narrazione mistificatoria, a partire appunto da quella della War on Terror, nata dal Patriot Act del 2001 e diffusasi in tutto il mondo. Dobbiamo inoltre considerare come dispositivi repressivi sperimentati e utilizzati nei territori colonizzati possono tornare indietro ed essere utilizzati per la repressione all'interno dell'Occidente. Basti pensare a quel vero e proprio carcere di guerra che è il 41 bis in Italia e alle analoghe strutture di tortura e annientamento quali Guantanamo, oppure la detenzione amministrativa usata tanto contro migliaia di prigionieri in Palestina quanto contro i senza documenti nei CPR italiani, oppure ai dispositivi di spionaggio, schedatura e controllo, all'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento poliziesco e militare che Israele sviluppa grazie alla collaborazione con le università occidentali, sperimenta contro i palestinesi e poi rivende all'estero. Riteniamo importante quindi conoscere questi dispositivi, anche per difendersi qui, in particolare in un periodo in cui si manifesta una crescente crisi economica e una tendenza alla guerra alimentata da politiche militariste. La normalizzazione del fronte interno, l'aumento della repressione, controllo e censura, l'attacco agli sfruttati, agli esclusi, ai movimenti di lotta è più che probabile. Riteniamo necessario per gli sfruttati comprendere questa realtà e attrezzarsi per contrastarla. Nel corso di questo incontro parleremo dello sciopero delle prigioniere e dei prigionieri di Palestine Action nelle carceri britanniche. Al momento vi sono 7, in realtà adesso sono, mi risulta a me, 8 prisoners for Palestine in sciopero della fame, di cui 5 ospedalizzati, e alcuni di loro hanno annunciato di volerlo portare avanti a oltranza. Altri 33 prigionieri si uniranno allo sciopero. Uno di loro, Sean Middlebrook, ha colto l'occasione di un permesso di qualche giorno per darsi alla macchia ed è al momento irrintracciabile. Ha rilasciato dichiarazioni con cui rivendica il suo gesto come rifiuto di essere un prigioniero di guerra dello Stato Israele in una prigione britannica. Fuori dalle carceri ci sono state manifestazioni di solidarietà mentre proseguono le azioni dirette contro le aziende legate a Elbit Systems, di cui gli scioperanti chiedono la chiusura degli stabilimenti nel Regno Unito. Lo sciopero della fame dei detenuti inglesi e delle detenute ha assunto un carattere internazionale. Hanno aderito anche Jackie McRae negli Stati Uniti e Dimitris Tsatsivasileiadis, prigioniero in Grecia. Hanno fatto arrivare la loro solidarietà ai prigionieri palestinesi e George Abdallah. In Italia hanno supportato lo sciopero con varie modalità i prigionieri anarchici Luca Dolce, che ha tenuto uno sciopero della fame dall'8 al 29 novembre, Juan Sorroche e Massimo Passamani. A dimostrazione che Israele è all'avanguardia della repressione, nello Stato sionista si sviluppano e che nello Stato sionista si sviluppano, sperimentano le pratiche e le tecnologie repressive che in seguito si esportano altrove, parleremo anche dello sciopero dei prigionieri comunisti turchi rinchiusi nelle celle pozzo. Si tratta di cubicoli di cemento introdotti recentemente in Turchia come forma di isolamento estremo e di tortura psicologica, che sono lo stesso tipo di cella che da anni Israele utilizza per annientare i prigionieri palestinesi. L'Italia, in questo contesto, è un paese che nella sua politica estera persegue gli interessi delle proprie multinazionali, Eni, Leonardo e altre. In Asia occidentale ha da tempo abbandonato politiche autonome equidistanti per porsi come piattaforma logistica dell'esercito statunitense e spalleggiare i piani espansionistici dei sionisti facendo lo sbirro per Israele. Allora, adesso vediamo, andiamo velocemente a ricordare la situazione dei compagni palestinesi che si trovano privati della libertà dentro i confini dello Stato italiano. Si tratta di Tarek Didri, cioè palestinesi non solo, Tarek Didri, condannato a 4 anni e 8 mesi, è stato arrestato nel contesto del corteo del 5 ottobre 24 a Roma, dove è intervenuto per difendere alcuni manifestanti che venivano picchiati, e attualmente è rinchiuso, se non sbaglio, all'Aquila. Comunque è dietro le sbarre. Ahmad Saled, richiedente asilo al 24 anni, rinchiuso a Rossano Calabro con l'accusa di custodia cautelare, con l'accusa di 270 quinquies, il terrorismo della parola. Mohamed Shahin è l'imam della moschea di San Salvario della città di Torino, recentemente colpito da decreto di espulsione e attualmente al CPR di Caltanissetta. Ecco, poi si arriva a Anan Ali Mansour, è prevista una giornata nazionale di mobilitazione, sarà proprio il 13 dicembre, 1312 ACAB. No? I tre palestinesi sono sotto processo all'Aquila con l'accusa di terrorismo internazionale, ne abbiamo parlato varie volte, Nelle ultime udienze abbiamo assistito alla presenza di funzionari dello Stato sionista in sostegno all'accusa, ovvero tribunali italiani chiamano i responsabili di un genocidio a testimoniare contro chi lotta contro questo genocidio. Questo odioso atto di servilismo è ben rappresentato dalla dichiarazione di Annan in videoconferenza all'ultima diciamo, udienza, che vado a leggervi questo breve intervento di Annan. È successo in passato e mi sono trovato di fronte a testimoni israeliani, ma era in un tribunale israeliano militare, di fronte alla giustizia militare all'interno di Israele. Ma non mi aspettavo né attendevo di dovermi trovare ancora una volta a ascoltare la testimonianza dell'esercito israeliano che occupa la nostra terra e che pratica la pulizia etnica con il nostro popolo palestinese, e che il loro primo ministro, condannato dalla Corte internazionale come criminale di guerra, fosse un testimone contro di me in un tribunale italiano. Non so più se mi trovo in un tribunale israeliano e se vengo processato in base alla legge militare israeliana, e se il pubblico ministero sia israeliano o lavori per conto di Israele. Sarà forse un processo militare israeliano? Israele ha davvero così tanta influenza in Italia? Si conclude così l'intervento in videoconferenza di Annan, che viene riportato. Si è inoltre tenuto alla requisitoria del pubblico ministero, la quale, nonostante nel dibattimento non sia mai riuscita a dimostrare nulla delle accuse rivolte ai tre, ha richiesto pesanti condanne: 12 anni per Annan, 9 anni per Ali, 7 anni per Mansour. Di fatto queste pesanti pene sono nient'altro che quelle previste dal codice per le accuse loro rivolte. La questione che si pone è che queste accuse sono infondate. Va inoltre ricordato che in Italia esistono da secoli le leggi antiterrorismo, esempio l'articolo 270 bis e i suoi derivati, che permettono di infliggere pesanti pene a partire da accuse fumose e aleatorie. L'Italia, in fatto di repressione politica, non ha nulla da invidiare a nessuno. Il processo farsa dell'Aquila e la dimostrazione dell'asservimento della magistratura agli assassini israeliani e la complicità del governo con il genocidio in Asia occidentale, tuttora in corso. Difendere la Palestina significa anche difendere i palestinesi in Europa colpiti dalla longa manus di Israele, e sostenere il diritto ai palestinesi a difendere la loro terra con i mezzi necessari. Quindi ricapitoliamo: 13 dicembre, giornata nazionale di mobilitazione diffusa in solidarietà con Annan Ali Mansour; 19 dicembre, udienza all'Aquila al tribunale, probabilmente potrebbe essere emessa la sentenza. Quindi contestualmente a questa chiamata per l'iniziativa che vi ho accennato minuti fa, si chiama anche al presidio all'Aquila 19 dicembre alle 9.30, e la linea per il momento passa alla regia. Allora, nel frattempo abbiamo messo in sottofondo quasi tutto il disco dei Raiko Riis, l'abbiamo cambiato da poco e stiamo ascoltando adesso dei pezzi dei Carburetor Dang, questo gruppo malese, e di cui ascoltiamo ancora un pezzo. Il pezzo si intitola Hanturaya Putrayaya, dall'album Ingin Kurejam Raksasa Kejam. A voi. We'll be right back. Sì, e continuiamo allora con la carrellata di iniziative complici e solidali, appunto, alle nostre latitudini più o meno. Allora, intanto domani, che è venerdì 12 dicembre, quindi 12-12, ma ci sta un 1-3-1-2 ugualmente, allo spazio autogestito di Udine, di Via dei Rubeis 43 a Udine, ci sarà la proiezione del documentario To Kill a War Machine. È un documentario del 2025 di Anan Majid e Richard York, che sono due registi del Rainbow Collective, e praticamente racconta questo documentario le azioni dirette di sabotaggio all'industria Elbit Systems, e cioè del Regno Unito, perché appunto sono azioni che si svolgono che sono svolte nel Regno Unito, e queste azioni di sabotaggio sono state filmate direttamente con i telefoni e con la webcam da chi le ha fatte, insomma dagli attivisti, e quindi il documentario ha questa impronta, insomma, non ha, i registi hanno fatto un lavoro di selezione e montaggio delle scene, ma c'è questa forza, diciamo, che viene direttamente da chi ha compiuto le azioni. E ricordiamo che, come si diceva prima, Palestine Action è entrata nella lista di proscrizione, insomma, come organizzazione terroristica nel Regno Unito, e quindi anche questo documentario ha avuto grosse rogne, insomma, nella circolazione, appunto per questa ragione. E noi faremo questo, proporremo, insomma, questo documentario così come azione anche di solidarietà e di sostegno allo sciopero della fame, alla lotta di Prisoners for Palestine. E invece sabato 13-12, 1-3-1-2 appunto, presidio a Gradisca Bisonzo davanti al CPR. Prima si parlava, insomma, quando è stato letto il lungo comunicato delle compagne che organizzano a Roma l'iniziativa della detenzione amministrativa, no? Come paradigma, come trade union, diciamo, tra il sistema di oppressione israeliano e l'Occidente. Ricordiamo che è proprio la detenzione amministrativa che viene il dispositivo che viene applicato per la reclusione delle persone razzializzate nei CPR, e quindi questa detenzione amministrativa agisce in Palestina come forma di repressione e segregazione, e rappresenta qui da noi, in Italia, ma non solo in Italia, in tutta Europa, un tassello chiave della catena del razzismo di Stato. Quindi naturalmente si va in presidio a portare solidarietà ai detenuti, che per fortuna sono sempre in rivolta, e con questa anche così istanza, insomma, di approfondimento anche rispetto alla detenzione amministrativa. E domenica invece, che è il giorno 14 dicembre, a Venezia, questa volta proprio Venezia città, ci sarà un corteo anticarcerario che parte alle ore 15 da Piazzale Roma, e il corteo poi approda proprio davanti al carcere veneziano, e a cura di un'assemblea di carceraria appunto veneziana. E niente, queste mi pare che c'è tutto, e partecipate ognuno e ognuno dove può, e prima di vi saluto e poi passo la parola di là dal vetro alla regia. mentre ascoltiamo ancora un po' di Carburetor Dung, e ascoltiamo, abbiamo ascoltato, perché oltre che ripetervi chi sono, questa band malese, i Carburetor Dung, volevo dirvi che cambiamo disco e ci ascoltiamo gli Un Quarto Morto con il loro 7 pollici, Che la paura cambi fronte. We'll be right back. allora anche dalla regia di Zardins Magnetics vi salutiamo, vi ricordiamo che va in onda per la passione e la cura dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e Trieste. Volevamo ricordarvi che potrete riascoltare la puntata nel podcast al sito zardinsmagneticsradio.noblogs.org, seguirci sul canale Telegram e ascoltarci in replica il venerdì alle 11 su Radio Eustachio e alle 17 su Radiazione, che ringraziamo per rimbalzarci. Se volete scriverci, l'email è liberetutti@autistiche.org. E invece, per chi volesse scrivere con carta e penna o per chi avesse impossibilità di utilizzare un computer, come anche i prigionieri, possono scriverci all'associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121 Trieste. Ripeto, associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121 Trieste. E vi salutiamo con un ultimo brano dal disco degli Un Quarto Morto. Gente che ti basta!